No, Tartaglia poi la bestia, non voglio, adesso non voglio insistere su questa questione, dico che il reato di Tartaglia Però il reato di Tartaglia è minore di quello che uno si può. è certo, per tante ragioni, Ma dunque l'avuto l'intervento di spesso. Genchi, lei ha sentito qualcosa anche se è stata dall'America, da Ah beh, no, Strasburgo? io di Genchi mi fido totalmente, Totalmente. Dunque, quando ha totalmente. dei dubbi sulla vicenda di Berlusconi, sul fatto, sul fazzoletto, Vabbè. sull'esagerazione, secondo lei coglie un punto rilevante? Ma la prima, purtroppo è la prima idea che era venuta in mente anche a me. Gli fa talmente gioco che conoscendo i miei polli, cioè conoscendo con chi ho da fare, posso trovare non inverosimile qualunque ipotesi, compresa quella di Genchi. Non ho nessuna ragione di pensarla vera perché non ho delle prove. Ma non mi sembra così scandalosa. Dunque, Semmai. Genchi non ha fatto male ad andare sul palco dell'Italia dei Valori e non No, hanno no, fatto io male non trovo che abbia fatto male, nemmeno no. quelli dell'Italia dei Valori a invitarlo a dire: beh, guardate che Berlusconi a parte che ha detto che A c'è un parte duo. che no, io non ho sentito esattamente cosa ha detto Genchi, ma primo, mi fido di Genchi. Secondo, se ha detto che è Ciecamente. possibile che questo lancio di Duomo sia stato una cosa come l'11 settembre, certo che l'11 settembre di New York non l'ha organizzato Bush, ma gli ha fatto talmente gioco che se uno sospetta di qualcosa non è poi, non è nelle nuvole. E dunque Genchi va benissimo, però Di Pietro poi l'ha smentito. Vabbè, ma Quello è un questo fa gioco delle parti, parte, dice diciamo che forse poi Di Pietro non è neanche d'accordo lei. che l'episodio del lancio del Duomo sia stato inventato. Io dico che non è inverosimile, non mi sembra, non Senta, no, abbiamo. io mi diverto moltissimo, levati, ma però mi deve dire una cosa. Insomma, lei sto Tartaglia, me lo dica però, io sono sicuro che lei lo pensa. E lo candiderebbe, sì o Non solo per aver lanciato il Duomo, se Tartaglia avesse delle altre qualità per cui dovrebbe aspirare ad essere candidato, io non farei tanto il sottile sulla questione del lancio del E dunque Duomo. lo candiderebbe. Lo candiderei.